Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. E grazie, grazie di esserci. Complimenti alle due fate turchine. Buongiorno, vi volevo fare i complimenti perché siete le donne più simpatiche. Ascoltarvi anche quando si lavora è veramente piacevole. Cristina, e che carina che suggerite veramente la giornata. Guardi. Buongiorno. Intanto complimenti per la trasmissione, vi adoro, siete bravissime. Sono una vostra fan accanita, lo saprete. Brava. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Hai lasciato il rubinetto aperto, lo sapevo. Devo Perché sempre io? Correrti dietro quando vai in bagno. Allora, provate a concentrarvi su tutti i rubinetti di casa vostra, e pensate se ce n'è anche solo uno che perde qualche goccia. Provate ad immaginarvi il suono che le gocce fanno in questo momento. Se siete in casa, provate a fare silenzio e magari lo sentirete. Proviamo a sentirlo insieme. No, non ci siamo sbagliati noi, non si è sbagliata la regia e non è neanche la vecchia sigla di Salvadanaio. Questi sono due suoni che davvero possono essere sovrapponibili. Perché? Perché per via del clima, degli sprechi, dell'inquinamento, l'acqua è diventata una risorsa sempre più preziosa. Proprio oggi anche Repubblica con un articolo si dedica a questo argomento, siccità, quella grande sete che minaccia il pianeta. Per questo l'acqua deve essere utilizzata con un'attenzione sempre maggiore, deve essere gestita bene, ad incominciare da quello che facciamo nelle nostre case. A volte la bolletta dell'acqua ce la dimentichiamo un po', resta nascosta per molti in mezzo alle spese condominiali, o comunque probabilmente diamo più attenzione alla luce, al gas, al telefono e non pensiamo che anche sull'acqua si può risparmiare, che si può usare meglio. Allora, 800 24 00 24, voi lo sapete quanto spendete per l'acqua di casa vostra? Ogni anno fate un po' un conto stamattina insieme a noi e condividetelo con noi. Vi siete mai chiesti a cosa sia dovuto quel prezzo e sapete quanto potreste risparmiare cambiando qualche abitudine? Ricordate che domenica 22 marzo è proprio la giornata mondiale dell'acqua ed è per questo che noi oggi abbiamo preparato una puntata tutta speciale, tutta dedicata a questo tema, vero Nicoletta? Proprio così, l'acqua è fondamentale per la nostra vita e per quella del nostro pianeta, quindi beviamola, usiamola ma non sprechiamola. Il nostro organismo è formato principalmente da acqua, approssimativamente il 75% dei muscoli e degli organi interni e il 10% del tessuto adiposo sono costituiti da acqua. Ma mi fermo con le percentuali perché in pratica non vi è alcun sistema all'interno dell'organismo che non dipenda direttamente dall'acqua, e per questo mantenere un giusto equilibrio del nostro bilancio idrico, un rapporto tra le entrate e le uscite di acqua, è fondamentale per conservare un buono stato di salute nel breve, nel medio e anche nel lungo termine. Ma voi ce la fate? Bevete solo quando avete sete o bevete indipendentemente dallo stimolo della sete? Sapreste dirmi in media quant'acqua bevete nel corso di una giornata? Provate a pensarci, quantifichiamo i bicchieri o se preferite andiamo a bottiglie e bottiglietti. Aggiungiamo anche un altro dettaglio, cerchiamo di capire se e in quale momento della giornata beviamo di più: al mattino, dopo pranzo, ai pasti, verso sera. 800 24 00 24, ne parliamo nella seconda parte della trasmissione. Partiremo dall'acqua che beviamo e dall'acqua che ci sembra di trattenere. Ritenzione idrica, vi dice qualcosa questa parola? A tra poco. Bottigliette anche con del gusto estetico particolare. Hai visto cosa si è portata Laura Bettini da noi nei nostri studi di Cuore e Denari? Mi piace, la volevate anche voi. Siamo un po' invidiose effettivamente. È una fiaschetta, lo diciamo per gli ascoltatori. Diciamo, ricorda quelle dei cowboy, no? Come forma per tenere il whisky, però invece del whisky c'è dentro l'acqua del rubinetto. Ecco, esatto. È molto elegante. È vero. E poi diciamo che ha utilizzato anche la parola giusta, fiaschetta. Noi oggi ci occupiamo di acqua. Lunedì saremo al Vinitaly. Pensate un po' che salto che facciamo con Cuore Denari, ma anche con tutti gli altri programmi di Radio 24. Allora, come dicevamo, intanto fra un po' vi ripresento questa voce a sorpresa, vi ripresentiamo questa voce a sorpresa che avete sentito, ma come dicevamo, domenica era Giornata Mondiale dell'Acqua. Ieri, proprio in occasione di questa giornata ormai prossima, la nostra collega Laura Bettini, che è qui in studio con noi, che avete sentito, ha presentato il suo libro L'Acqua Intelligente, edizioni Ambiente. Laura, di nuovo ciao e benvenuta. Grazie a voi dell'ospitalità, un saluto a tutti. Sentiamo tanto parlare di smart city, anche il sistema idrico delle nostre città e del nostro paese può diventare più smart. Delle buone pratiche ci sono già, diciamo che semplificando molto, questo è proprio quello che tu racconti nel tuo libro. Sì, sì, è così. Ci intelligentemente. Intelligentemente, beh, ovviamente si parla sempre di smart city collegate all'energia, collegate al gas. In realtà ci possono essere delle smart city, anzi per fortuna già qualcosa c'è in giro, che stanno attente all'acqua e questo significa non disperderla, non consumarla, mm-hmm. non sprecarla, e ci sono i dispositivi intelligenti, quindi smart, per fare tutto questo. Ce ne sono tanti in Italia? Nelle nostre case. Ci sono tante sperimentazioni, ecco, di vari gestori in giro per l'Italia, c'è molto poco di già in opera, ci sono alcune belle esperienze come queste del gruppo CAP qui nella provincia di Milano, ci sono a Torino, ci sono a Bari, anche perché l'acquedotto pugliese ormai ha fatto passi da gigante, da quando era il colabrodo d'Europa adesso non è più così e si è molto innovato, però ecco, questo per quel che riguarda i gestori. Nelle nostre case i dispositivi che ci consentono di essere più intelligenti sono sempre più o meno quelli. Sono quelli che sono. Sono i frangiflutto, sono piccole cose che noi possiamo mettere per evitare lo spreco. Ovviamente c'è molto che noi possiamo fare, quindi non aprire l'acqua, lasciarla scorrere inutilmente. Il famoso lavaggio dei denti. Esatto, senza far venire giù l'acqua e tante altre, non e stare sotto la doccia. E tanto altro si potrebbe fare se i costruttori, diciamo, fossero coinvolti in questo processo e quindi cominciassero a dividere gli scarichi, a usare l'acqua potabile solo per gli usi appunto potabili, quella che c'è dal rubinetto, ma per lo scarico potremmo utilizzare le acque piovane. Ma questo va fatto proprio in fase di costruzione, mm-hmm. non è che possiamo noi inventarcelo, ecco. Abbiamo anche un'altra ospite collegata al telefono, salutiamo un'altra amica di Cuore Denari che è Tina Napoli, responsabile progetti area consumatori di Cittadinanza Attiva. Ben ritrovata, dottoressa Napoli, buongiorno. Buongiorno a voi, benvenuta. Io intanto continuo a invitare i nostri ascoltatori a chiamarci all'800 24 00 24. Vogliamo sapere, oltre a quanto bevete, per capire se vi fa bene alla salute, perché anche quantità esagerate non è che siano proprio, no? L'optimum, Nicoletta. Però vogliamo sapere quanto spendete ogni anno per l'acqua, soprattutto se avete una idea chiara su questa spesa, se provate mai a calcolarlo. Facciamo anche un paragone fra le diverse zone d'Italia. Se volete scrivere, scriveteci anche al 349-238-6666. Tina Napoli, proprio ieri avete diffuso con Cittadinanza Attiva i dati del vostro osservatorio prezzi e tariffe sull'acqua ed è stata anche un'occasione per promuovere alcuni consigli utili per tutti i consumatori per vivere più consapevolmente il rapporto con questo che è. Può sembrare molto banale e scontata questa considerazione, ma a volte non la facciamo tra noi e noi, è un bene comune di grandissima importanza, riflettiamo ogni tanto su quelle zone dove questa risorsa è veramente o più che scarsa, proprio quasi inesistente. Quanto costa oggi l'acqua in Italia? Potremmo dire che costa tanto o poco? C'è un prezzo che sta salendo? È un prezzo che sta salendo o scendendo? Come la possiamo fotografare, Tina Napoli? Sì, subito comunque qualche dato. Innanzitutto noi i dati a cui facciamo riferimento sono di una famiglia tipo di 3 persone con un consumo annuo di 192 metri cubi di acqua, sono comprensivi di al 10%, questo diciamo per dare comunque la metodologia. Rispondendo subito alla domanda, rispetto all'anno scorso più 6,6% comunque in più, 52,3% rispetto al 2007, diciamo che è in ascesa il costo dell'acqua. Mm-hmm. E in base sempre al vostro osservatorio, se andassimo a ficcanasare nelle case degli italiani, quanto spende per l'acqua una famiglia media? Allora, una famiglia media, con i parametri che ho illustrato prima, spende in media 355 euro. Questa è la media, con 330 al nord, 468 al centro e 315 al sud. questa è la spesa annua media della. Queste sono della, diciamo, anche se dovessimo fare un'identificazione, diciamo, di carattere geografico territoriale, le case, le casistiche più interessanti. Altre cose da dire sulle città italiane ce ne sono? Ma altre cose da dire sulle città ci sono, cioè altre spigolature, diciamo. Innanzitutto che le regioni centrali si caratterizzano comunque per le tariffe più alte, come ho detto, che sono anche quelle, ci preme comunque sottolinearlo. Il primato comunque va alla Toscana, dove la spesa media in un anno è di 526 euro, con un incremento del 5,6% rispetto all'anno scorso. Inoltre, ulteriore sottolineatura, 7 delle 10 città più costose sono appunto capoluoghi toscani. Comunque la Toscana ha il primato comunque assoluto. Sono più virtuose le regioni del nord, quelle, come si è già detto, anche rispetto alla spesa media. La seconda meno cara, appunto dopo Isernia, che è la meno cara, è Milano con 136 euro. I maggiori incrementi rispetto all'anno precedente. L'unico caso in cui Milano è meno cara di qualche città. In positivo per qualcosa. Milano ha un problema grosso con l'acqua, ne ha troppa. Ecco. Forse è un invito allo spreco. Subito, ne parliamo immediatamente. Vabbè, con tutti quelli che verranno a bere durante l'Expo, insomma, teniamo un po' qualche scorta. No, mi stavo interrogando un po' sulla Toscana, perché consuma così tanto. Mi immaginavo un po' tutti questi vigneti da irrigare, non so. Ma Laura, era tu che un ne problema pensi? Di spesa, adesso forse... Ah, sì. Tina Napoli, lascio concludere. Di spesa media ogni anno, sì. Cioè la spesa è più alta in Toscana. Comunque, che ci piaceva comunque condividere, era comunque che la tariffa più alta per il servizio di acquedotto è applicata a Reggio Calabria, che è addirittura 39 volte superiore a quella di Aosta, che di 9 euro, mentre quella di Reggio Calabria è di 355 certo. euro. Per cui invece altre informazioni, la depurazione e la fognatura costano di più a Ferrara, 6 volte di più rispetto a Cremona. Laura mi ha subito detto, no, ma guarda, è la spesa che è la più alta, che non significa che sia il consumo ad essere più alto. No, ecco. Anzi, può essere che in questo modo sia stato disincentivato una parte del consumo. Io adesso non so come rimpieghi la Toscana questi proventi, magari ha fatto degli ammodernamenti o ha deciso di avere un ciclo delle acque diverso. Adesso magari l'ospite che abbiamo, no, Tina Napoli, ci può dire un pochino meglio. Però ecco, il fatto che si paghi di più non significa assolutamente che sia un costo maggiore, quindi come sempre potrebbe anche essere l'incentivo invece per farne consumare di meno. Il deterrente economico non c'è niente da fare, sempre quello vincente. Un po' funziona così, l'abbiamo visto anche per i rifiuti, no? A Milano le multe hanno fatto sì che immediatamente Milano diventasse la prima in Europa per la raccolta differenziata. Ecco, no, pensavo già per le multe anche su questo. No. Andiamo subito a sentire i nostri amici che ci chiamano da casa. Allora, io andrei subito nella provincia di Catania, c'è Nello. Buongiorno Nello, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Siete due donne splendide. Grazie Nello. Ma stamattina siamo quattro, pensi un po', qua abbondiamo. Ancora meglio. Allora, io vivo in un piccolo paese della provincia di Enna, Catananuova. In provincia di Enna è la provincia dei laghi, questo in Sicilia. Il prezzo dell'acqua è a metro cubo 3,30 euro. Sì. È una cosa allucinante. In più, quest'anno in bolletta ci hanno messo dei canoni arretrati dal 2005 al 2010, senza spiegarci perché cosa. E questi canoni ammontano a una complessiva fatturazione di 22 milioni di euro per tutta la provincia. Questa è la gestione privata dell'acqua, purtroppo, in Sicilia. In Sicilia. Nello, grazie. Ci hanno scritto in provincia di Catania, ma chiamava da Enna. Ho capito male. Sì. Poi, vabbè, a prescindere, diciamo, magari dalla... Magari lui chiama dalla provincia di Catania, una casetta Enna. Ah, ecco, comunque. Non lo so, dai. Detto questo, insomma, qua ci parla di un costo di 3,30 euro al metro cubo e soprattutto una contabilizzazione del consumo che... mi verrebbe da dire fa acqua da tutte le parti, brava, per fare sì. una battuta. Tina Napoli, anche sul tema della contabilizzazione dei consumi avete fatto un focus speciale, mi pare, nel vostro osservatorio. Sì, noi abbiamo fatto un focus in questo osservatorio e soprattutto comunque nel rapporto sulle segnalazioni che abbiamo presentato comunque qualche mese fa a Roma. Innanzitutto, che cosa noi paghiamo in bolletta? Anticipo forse la domanda, però penso sì, va bene, va bene. La domanda penso sia il momento comunque di dirlo come è composta comunque la bolletta. Innanzitutto c'è il servizio comunque di acquedotto, la fornitura comunque di acqua potabile, che prevede comunque il prelievo dell'acqua dall'ambiente naturale, lo stop per la distribuzione in rete, lo stoppaggio fino alla consegna comunque delle abitazioni. Abbiamo il servizio di fognatura, che consiste nella possibilità per l'utente di scaricare l'acqua utilizzata e spostata in casa nella specifica tubatura stradale, il servizio di depurazione, ascoltate comunque i consumatori, che consiste nel trattamento delle acque sporche trasportate nelle fognature e rese comunque potabili. Le imposte per quel servizio idrico, ripeto, è integrata e applicato l'IVA del 10%. Questa tariffa applicata su tre servizi, non a caso io prima ho fatto riferimento ai tre diversi servizi, c'è una parte che è fissa, che va corrisposta indipendentemente dall'acqua consumata, anche per rispondere alla sollecitazione comunque di prima dell'altro ospite. La parte fissa non può essere modulata per scaglioni ed espressi in euro comunque all'anno. Questa componente, diciamo, copre appunto il noleggio del contatore e parte di costi di investimento. Comunque la parte variabile è proporzionata comunque al consumo. Noi questa, diciamo, è la composizione comunque della bolletta e della tariffa, quello che noi paghiamo, per cui non è detto che laddove comunque c'è stato un aumento corrisponde comunque un aumento di consumo. Probabilmente, come è stato già adesso, c'è un aumento comunque di investimenti della rete. Laura, sì, no, volevo capire da Laura Bettini che cosa ne pensa del caso del nostro ascoltatore, cosa sì, ci dice allora, questa, diciamo, situazione nel catanese a Enna o comunque Catania, in Sicilia. Comunque in la prima cosa è che, così per sdrammatizzare, diciamo che gli va bene rispetto a quello che si paga, ad esempio ho scoperto ieri in Svizzera si parla di 8 euro al metro cubo, quindi cioè, i prezzi possono essere diversi. Il fatto è poi dopo quello che è il servizio che riceve anche il cittadino e il trattamento delle acque. Allora purtroppo dobbiamo segnalare che in Sicilia 6 su 10, questa più o meno la stima, non hanno un servizio di fognatura, 6 cittadini su 10 non ce l'hanno, quindi lui paga 3,30 euro e poi i reflui vanno al fiume e vanno al mare, quindi questo è chiaramente un problema serio che va affrontato e che oltretutto ci porterà ad avere gravi sanzioni dall'Unione Europea, perché la media della Sicilia è quella, ma la media, diciamo, italiana è 4 cittadini su 10 non hanno quel servizio, quindi è chiaro che lui paga tanto e non ha tanto quanto dovrebbe avere. Gli svizzeri, a fronte di un prezzo di quel tipo, di una tariffa, ma Berlino di quel sono tipo, 6 euro la Francia sono anche lì, siamo molto alti, i prezzi sono diversi, però poi dopo c'è un 50% della tariffa che va reinvestito necessariamente nelle infrastrutture, e quindi è chiaro che si paga tanto, ma di anno in anno ci sono anche degli ammodernamenti, ci sono dei servizi ulteriori, ci sono una garanzia di un trattamento completo. Chiarissimo. Andiamo a Felice? Volentieri, ci chiama da Roma. Buongiorno, eccomi. Così ci dicono. Buongiorno, Felice. Buongiorno. È Roma o Frosinone? Il problema di Roma, perché Roma l'acqua è giusta per quello che pago. No? Quello che mi lamento è che ho una casa in montagna di cui vado circa 15-20 giorni l'anno e arrivano tariffe da capogiro. Dove sta questa casetta? Guarcino Frosinone. Ecco, questo paese è ricchissimo di acqua, circa 6 sorgenti, perciò diciamo è ricchissima di acqua, e l'ultima bolletta che mi è arrivata a 225 euro per non esserci stato mai, ecco, senza consumare. Ha chiesto informazioni, diciamo, esatto, Felice. In un anno arrivo qua quasi 400 euro, ma come me sono tutti. Le faccio presente che fino a 3 anni fa non avevo il contatore. Quando sono andato, diciamo, all'associazione dei consumatori, l'avvocato è rimasto un po' a bocca aperta, come non è il contatore, ho fatto del tutto per farmi mettere il contatore. Dal contatore oggi, che sono passati 2 anni, ho 0,0034 metri cubi di acqua. Vado sempre uguale, perciò diciamo io come se sbatto la testa contro, diciamo, un materasso di fiume, nel senso che tra l'altro Felice nella vasca da bagno non lo sa. Era per capire, siccome io non ho un'idea molto lucida su, che ne so, un consumo medio della famiglia quando parliamo di metri cubi, no? Laura, aiutami, che ne so, come possiamo questi 34 che Felice ci ha indicato. Una famiglia di 4 persone, ma non so quanti ne può. Arrivati a Napoli ci ha dato riferimento 300, che erano 190, 100, è ancora in linea, vero? Latina, Napoli, allora un consumo medio di una famiglia, lo ribadiamo, quel parametro di, città, di prima? Diciamo. Parametro Quello il parametro standard della nostra indagine è 3 persone con un consumo annuo di 192 metri cubi di acqua. Ok, questo per una vita quotidiana, quella che sarà nella casetta di montagna, è chiaramente un consumo 20 giorni l'anno, 34 è possibile che ne abbia anche consumati, però lui contesta assolutamente le tariffe che in questo comune gli vengono applicate. Cosa può fare un cittadino non tanto convinto della spesa che deve sostenere? Intanto, oltre a rivolgersi all'associazione dei consumatori, ma magari prima andare a fare due chiacchiere con un assessore, con un sindaco, con il gestore di quel servizio in quel territorio. Tina, Napoli, ci dia un po'. Allora, do due dati prima di dare il consiglio comunque al consumatore. Il dato è che nel Lazio c'è una dispersione idrica del 60%, a fronte di una media nazionale del 37%, comunque questo te la dice lunga sullo stato della nostra infrastruttura. E Frosinone rimane comunque nel Lazio la città con la tariffa comunque più alta sulla base dei nostri parametri di 555 euro annui. Che cosa può fare un cittadino? Innanzitutto imparare comunque a leggere la bolletta, imparare comunque a essere consapevole e rivolgersi innanzitutto alla sua amministrazione, effettuare comunque un reclamo e dotarsi di una carta dei servizi. Da quando l'autorità per l'energia elettrica e il gas ha anche la competenza sul tema del servizio idrico, è stata emanata comunque una direttiva che obbliga le aziende a inserire comunque online le carte dei servizi, carte dei servizi che sanciscono un patto fra cittadini e aziende, che definiscono comunque innanzitutto gli standard di qualità del servizio, per cui al nostro cittadino e ai cittadini in generale, ai consumatori, noi diciamo diventate comunque consapevoli, chiedete gli strumenti che sono comunque a tutela comunque del servizio. Cuore e denari. Cielo, oceano, acqua nella tua onda e nuvola. Allora, ci raccomandano di bere un litro e mezzo, due al giorno per idratarci, mantenere un giusto equilibrio del nostro bilancio idrico, ma noi a volte abbiamo la sensazione che il nostro corpo non elimini l'acqua in modo corretto, la trattenga. Sospetto che ci viene quando al mattino ci vediamo le palpebre gonfie, oppure l'anello lascia il segno, abbiamo le gambe pesanti, le caviglie in modo particolare, quando non riusciamo a chiudere la gonna anche se l'ago della bilancia non si è spostato. Insomma, l'idea a volte che il gonfiore o la tensione siano causati dall'acqua che per certi versi ha sbagliato strada, invece che uscire si è fermata, ci viene. Che cosa può essere successo? Chi l'ha trattenuta? Lo scopriremo strada facendo, o meglio a partire dalle 11.45. Torna a trovarci il dottor Attilio Speciani, allergologo immunologo a Milano. 800 24 0024, vi sto aspettando, potete iniziare a prenotare i vostri interventi. All'inizio della trasmissione c'è già un ascoltatore che ha scritto: ma se uno ha la ritenzione idrica e va nel deserto, resiste di più? Lo chiederemo al dottor Speciani, magari lo facciamo il domandone. Il dromedario magari soffre di ritenzione idrica, scopriremo in questa occasione. Se le dromedarie hanno la cellulite, chi lo sa. E con questa riprendo la guida della parte dedicata ai denari e noi chiediamo ancora il vostro contributo all'800 24 0024. Provate a calcolare con noi quanto spendete all'anno per l'acqua, raccontatecelo, vi ritrovate in questi profili che ha identificato Cittadinanza Attiva nel suo rapporto. Raccontateci anche se negli ultimi tempi avete cambiato qualche abitudine per usare meglio questa risorsa, come ha fatto per esempio l'amica Serena, molto attiva con noi su Twitter, che ci ha scritto: sul lavoro ho intrapreso una vera crociata contro lo spreco d'acqua a costo di sembrare petulante, ma non si può accettare tale scempio. Io lo faccio cosa con la carta. Cosa facevano? No, io lo faccio con la carta perché riciclo, la infilo nelle stampanti e faccio sempre arrabbiare tutti i colleghi che la trovano lì. Comunque, vorrei vedere te, scusami Deborah, parentesi, se ti trovassi col giornale radio del giorno prima, magari. Va bene, mi hai convinta, starò attenta, però non te l'ho mai infilata nella tua postazione della carta riciclata. Allora, tornando, no, però volevamo completare il discorso dell'ascoltatore di Roma, che alla Casina in provincia di Frosinone si lamenta che consuma niente praticamente solo per 20 giorni l'anno, ma le bollette sono del tutto fuori misura, almeno secondo i suoi personali calcoli. Il tema è che però la distribuzione dell'acqua sul territorio non avviene secondo naturalmente reti che sono efficienti nella stessa misura. Sì, no, anche Laura? Con la facilità di trasporto, perché appunto in una grande città come può essere Roma, Milano, comunque grandi agglomerati urbani che magari come Milano hanno addirittura una grande disponibilità d'acqua, costa assai meno muovere e anche fare le reti o comunque portare l'acqua in un condominio di 10 piani piuttosto che portare l'acqua in montagna, in una casetta dispersa in una frazione dove magari c'è solo quella casa o ci sono altri al massimo 15 abitanti, quindi i prezzi sono assai diversi, anche non solo di trasporto ma di manutenzione, pensiamo all'energia per pompare l'acqua fino a un certo punto, quindi il costo può essere di base comunque diverso. Poi appunto ci ricordava Tina Napoli della dispersione che c'è nell'acquedotto specifico in quell'area lì, quindi ci sono una serie di fattori che vanno tenuti in conto. Ha ragione l'ascoltatore, comunque dice io vorrei quantificare esattamente qual è il mio consumo e pagare il mio consumo, certo, e l'eventuale necessità di trasporto. Ci vogliono i famosi contatori intelligenti, cioè contatori che sanno contare millimetricamente, possiamo dire, quello che è il nostro consumo. Come quelli che abbiamo adesso in casa per l'energia e il gas. Brava, sono esattamente uguali. E che non sono assolutamente quelli dell'acqua, perché poi alla fine, quando alla fine dell'anno, non so come capita a voi, ma nel mio condominio tu comunichi quanto consegna il tuo contatore, poi alla fine si ripartiscono le spese, no? L'amministratore del condominio fa i conti, ti dice ma tu non hai un'idea precisa. Devo dirti che io non faccio neanche questa neanche comunicazione. Ecco, io avevo io ho quella. Io ho questa comunicazione. Speriamo di averlo comunicato. Carlo, adesso ci raccomando. C'è Carlo, dai. Ecco. E quindi il contatore intelligente è una tutela sia per il consumatore che per l'azienda. Infatti. Perché sa se c'è anche una perdita, può servire per movimentare le giuste quantità d'acqua. Non so, il Milano aspetta l'Expo, arriveranno, si spera, milioni di turisti in più e ci sarà una richiesta d'acqua superiore e a quel punto se avessimo questi contatori potremmo muovere l'acqua che serve in quel momento e lasciarla ferma quando non serve. Temo che per maggio tutto questo lavoro non lo potremo fare. Direi di non scatenare altre gare d'appalto anche per questo servizio, perché non è proprio il caso su questo argomento. Andrei avanti con altri ascoltatori negli ultimi minuti dedicati al consumo nelle nostre case. Anna dalla provincia di Pavia, di Pavia, perché ho letto Pavia e Pisa, di Pisa, e poi andiamo a Firenze con Giancarlo. Anna, buongiorno. Anna, benvenuta. Sì, buongiorno. Siamo dalla provincia di Pisa, esattamente a Volterra. Sì. Io ho una piccolissima attività artigianale, lavoro da sola, quindi ho un piccolo consumo di acqua veramente minimo, nel senso che ho consumato in un trimestre un metro cubo di acqua. Il costo complessivo della bolletta, depurazione, IVA e tutto, cioè, e poi la spesa che uno guarda è quanto spende in totale, no? Quanto costa magari il metro cubo, le singole voci. Comunque per un metro cubo di acqua 29 euro. Però non è una bolletta complessiva. No. Complessiva. È una bolletta trimestrale. No, esatto, infatti Laura lo diceva. Trimestrale. Quindi sostanzialmente altro che 3,30 euro di quello che aveva detto. Quindi il costo complessivo è esagerato, specialmente per le attività commerciali. Certo, figuriamoci. Costa di più che per l'uso domestico. E noi nella nostra zona non abbiamo depurazione, perché abbiamo un depuratore in costruzione da 20 anni e non è fatto. E quindi è tutto gestito da una stessa azienda e gestisce l'acquedotto Pisa e Livorno. A costi altissimi con disservizi continui. Grazie Anna, grazie Anna, prendiamo atto della sua denuncia, ci mettiamo insieme anche quella di Giancarlo, poi andiamo tra a completare. Tra l'altro Cittadinanza Attiva infatti metteva non a caso Livorno anche tra le più care d'Italia. Ottimo, riconferma. Esatto, infatti no, sulla Toscana appunto abbiamo acceso questo riflettore stamattina e so bene che i vigneti non si innaffiano, come subito prontamente mi ha rilevato l'ascoltatore. Tu pensavi al mais. Io devo fare un'altra attività agroalimentare. Ma noi andiamo a Vinitaly lunedì, ti spiegano tutto. Giancarlo da Firenze. Se vogliamo mettere una piccola vigna. Giancarlo, me la metto sul balcone e la innaffio tutti i giorni. Visto è così, l'ammazzi, vai. Giancarlo, benvenuta anche lei. Sì, buongiorno a tutte e due le bravissime conduttrici. Grazie Giancarlo, ci dica. Allora, io... Anche lei però, insomma, adesso prima i complimenti, poi arriva stac, la lamentela. Come va da lei? È una lamentela, mi dispiace anche farla questa denuncia, ma guardi, è una vita che io mi arrabbio. Vivo solo da quando sono separato da tanti anni in un condominio del centro della città e il mio consumo in metri cubi è sempre di 3-4 metri cubi. pago 60-70 euro tutte le volte. E allora sono andato a protestare, mi ho detto: guardi che ci deve essere qualcosa che non va lì nel contatore, perché noi si viene a fare la lettura del contatore e poi la spesa in più si addebita a tutti i contatori. Allora cosa si è fatto? Si è fatto cambiare il contatore, si è messo il contatore nuovo, però questa cosa qui continua, sono anni che continua, perché dunque ci è stato detto che per dimostrare questo ci vuole un pubblico ufficiale che legga il contatore quando vengano loro. Pure. Sì, è perché noi non si conta niente, nessuno, deve essere un pubblico ufficiale a leggere questa e quindi si continua a pagare delle cifre enormi senza fare niente, anzi quando allora paga... Giancarlo, devo salutarla, sì, perché il tempo a nostra disposizione è per Giancarlo, sì. Ma non c'è mica un giardino? No, perché a noi ad esempio nel mio condominio è capitato che il giardino ciucciava. A sto pubblico ufficiale veniva utilizzata l'acqua di un contatore che per innaffiare il giardino, poi un giorno si è scoperto, è stato ripartito una spesa spaventosa a tutti i condomini perché certo, era appartenente a quel condominio. Benissimo. Ma cosa può fare Giancarlo? Abbiamo capito che sulla Toscana dove vai, provincia dove che vai, tocchi, il problema che trovi. Sì, cosa può fare Giancarlo? Io a questo punto non lo so, chiamiamo il pubblico ufficiale, andiamo noi come pubblici ufficiali. Ma incredibile, ufficiali. Tina Napoli, la lascio concludere, noi metteremo poi i consigli di cittadinanza attiva per un consumo consapevole, attento appunto da parte delle famiglie dell'acqua, ma qua è anche un controllo consapevole come sta facendo questo ascoltatore. Esattamente, il problema è che qua andiamo oltre quello che si può ragionevolmente fare in via privata. 30 secondi di raccomandazioni per questi ascoltatori toscani, cioè, le associazioni dei consumatori qua devono fare qualcosa in più intanto, un piccolo monitoraggio ulteriore. Sicuramente la nostra attività in Toscana deve comunque aumentare a fronte comunque di questi costi elevati e di quello che stiamo comunque ascoltando. Sicuramente le chiedo, come ho già detto prima, di chiedere comunque la carta dei servizi, di effettuare un reclamo usufruendo comunque di tutte le associazioni dei consumatori, diciamo, mobilitando quelli che sono comunque soggetti deputati comunque a rappresentarlo, perché la domanda del pubblico, la risposta del pubblico ufficiale è oltremodo comunque bizzarra. Di fare l'autolettura e di chiedere comunque al proprio comune l'applicazione del comma 461 che inserisce i consumatori e le associazioni dei consumatori nelle fasi di definizioni e nella valutazione. Bene. Comunque del servizio, cambia la governance di questi servizi. Ad un paio di ascoltatori toscani comunque regaliamo anche il libro di Laura Bettini, Acqua Intelligente, così almeno possono documentarsi su questo tema molto caldo. Grazie a Tina Napoli e Laura. Grazie a voi, grazie. Ottimo. A voi dell'ospitalità. Ricordiamo quando vai in onda la tua trasmissione? Il sabato alle 14, l'altro. Perfetto. Pianeta. Grazie. Grazie a voi. Cuore e denari. Acqua siamo noi che si può bere. Acqua siamo nella quale si può affogare, tuffandosi nell'acqua che ti apre un varco. Poi ritorna ad abbracciare. Sono le 11:48. Da quando vi siete alzati stamattina, quanti bicchieri d'acqua avete bevuto? Chiamateci e diteci se riuscite naturalmente, senza fatica, a bere un litro e mezzo d'acqua, due, o se invece dovete imporvelo, o se al contrario bevete solo quando avete sete. Lasciate che sia così, non vi preoccupate di quanto bevete. Con noi oggi è tornato a trovarci, l'avevamo già anticipato, il dottor Attilio Speciani, medico specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Buongiorno, bentornato. Oh, buongiorno, vi ho sentito tutti idratati prima. Perché guardi un po', la mia bottiglietta è finita. Debora ha già quasi finito la sua. A me niente qui, c'è nessuno. Ma adesso arriva. Idratiamo anche durante la trasmissione, perché lei ci ha detto che il cervello è uno dei primi organi che entra in sofferenza se l'apporto dei liquidi è carente. Allora, con Debora, insomma, cerchiamo di fare il possibile, scattato subito il bicchiere d'acqua. Quindi almeno l'acqua non ce la facciamo mancare, perché senza acqua, no, è possibile che la memoria abbia qualche calo, la concentrazione, no, diminuisca, rendimento. Ce n'è un mucchio. Se vogliamo fare solo un breve elenco da buttare lì, perché più o meno la gente sa che senza acqua poi anche le funzioni intestinali qualche turbolenza ce l'hanno, no? Nel senso che se non c'è un apporto idrico giusto, la fibra non si gonfia e il transito, chiamiamolo così, non è così simpatico e agevole. Certo. E poi ovviamente tutti dicono certo, perché bisogna fare funzionare le reni in modo adeguato, eccetera, e quindi i reni devono essere attivi e quindi l'acqua ha un'azione diuretica potente, importante. Poi ci sono, tutti sanno quelli che avviene quando c'è ad esempio l'uso del doping nel ciclismo, tutti ormai sono esperti, no? Che c'è questa iperconcentrazione del sangue con problemi cardiovascolari. Se uno è disidratato arriva ad avere anche problemi cardiovascolari, perché diciamo che il sangue è troppo ispessito in un certo senso, e quindi si rischiano anche dei problemi vari. Poi ovviamente tutti, quando uno va dall'estetista e anche dal medico, dice ah, la pelle, non bevo, non metto le creme, no? Poi scopri che in realtà è perché uno magari ha degli altri temi. La cosa importante che la gente non sa è che invece ad esempio l'acqua ovviamente aumenta il senso di sazietà, e questo più o meno viene utilizzato, ma ci sono almeno due modi, questo lo dico perché così faccio bere la gente, per attivare il metabolismo e per ridurre il peso, che questo è un dato e positivo. Isotte già subito lì che guarderà il minuto 11:51, lo taglio, lo metto sul sito, vada. È importante perché ci sono due aspetti. Intanto ad esempio c'è un bellissimo lavoro che è stato fatto in Gran Bretagna, in Germania, in cui sono state messe in una scuola, in un college equivalente, quindi età dai 14 ai 18 anni circa, sono state messe più fontanelle, e questo impediva ai ragazzi di andare a prendere, come erano abituati, andare a prendere soft drink, e quindi in realtà bevevano gratuitamente molta più acqua, e questo semplicemente, quindi con un cambio di abitudini lasciato anche alla gratuità, quindi al servizio, so che prima avete parlato di servizio. Sì, quindi un cuore denari praticamente, no? Risparmi soldi, guadagni salute. E guadagni salute. Il secondo invece è l'aspetto che è stato evidenziato, per cui in una dieta, è stato pubblicato su Obesity nel 2010 questo lavoro molto bello, persone sottoposte a dieta, gli si chiedeva di utilizzare dell'acqua in abbondanza, quindi ad esempio di svegliarsi e di utilizzare almeno due bei bicchieroni d'acqua. Ci si è reso conto che alla fine del periodo di dieta di 3 mesi, quelli che avevano una utilizzazione d'acqua maggiore avevano una perdita di peso di 2 kg maggiore a quelli che non la utilizzavano. Questo è fondamentale. Perché? Perché uno, quando butta dentro dell'acqua fresca, fredda, temperatura ambiente, in qualche modo deve scaldarla, quindi c'è un apporto di energia, come se uno, non dico facesse 25 flessioni al mattino, però qualche cosa di analogo in realtà si sviluppa. In più l'organismo riceve, questo è l'ultimo elemento che do, questa situazione per cui noi a volte abbiamo fame e diciamo che fame che avremmo, no? E invece sete. Nel cervello sono vicini, sono vicinissimi, il punto della fame, sono il punto un po' come sete. Me te, sì, vicine, sono quelle due lì, sì, sono, sì, vedete, sono la vicine. Nico e la Debora, io sono certamente la fame. E quindi se tu in realtà a volte pensi di aver fame, in realtà hai sete, sedi quel tipo di azione e eviti di mangiucchiare delle cose stupidelle, insomma, quindi buono, dai. Allora, andiamo a sentire i nostri ascoltatori e poi vorrei, dato che lei ci ha raccontato tante cose della funzione dell'acqua, io vorrei anche cercare di dare un po' qualche risposta. Ci sono tanti luoghi comuni sull'acqua, è meglio berla lontano dai pasti, esatto. Gonfia, sgonfia, e qual è quella più indicata. Per cui a tra poco ci arriviamo, ma abbiamo Gianni che ci chiama da Verona, buongiorno, e poi abbiamo il nostro sì. Deserto, eh. Ah sì, Gianni, buongiorno. No, no, buona giornata. Buongiorno. Eccoci, ecco, qua, Gianni, vada. Eccomi qua. Io non sono bravo nell'alimentazione, nemmeno nell'acqua, perché bevo molto, ma non sempre acqua. Ecco, chiedevo, si parla di acqua o di liquidi, innanzitutto da assorbire nel corpo. E il fatto che, l'ho constato personalmente, se bevo acqua, diciamo con una certa regolarità, la elimino, se alla sera, perché un paio di bicchieri di vino li bevo, questi non escono. L'ultima domanda sarebbe, c'è un periodo per depurare un corpo bevendo con costanza acqua, essendo abituati a bere di tutto, acqua, birra e quant'altro? Belle domandone, bene, Gianni, bene, perché dai. Gianni già vuole, ho visto che un po' vuole cambiare, Gianni, sì, lui cioè, già pronto, sta mettendo lì il piedino. Pronto. La risposta è semplice, in qualsiasi organismo in carenza idrica l'acqua comunque apportata, che arrivi da un succo, dal vino, dalla birra, fa il suo gioco, per cui se stiamo morendo di sete, il fatto di riuscire a mettere l'organismo è capace di selezionare anche tra le cose più stupide, ma almeno tira fuori qualche liquido per riuscire a sopravvivere. Credo che Gianni non sia al limite della sopravvivenza in questo momento, e allora cambia radicalmente, perché il fatto ad esempio di utilizzare dei succhi prevede che arrivino anche delle vitamine, ma ad esempio in molti dei succhi che oggi vengono venduti, utilizzati, che sono in realtà molto filtrati, senza fibre eccetera, c'è un contenuto di fruttosio che è quindi zuccherino comunque, che puff, fa innalzare dopo un po' anche la glicemia e tutto quanto, quindi c'è un indice glicemico che è basso come indice glicemico, ma in realtà provvede nel giro di poco a incrementare il metabolismo degli zuccheri, cioè ad aumentare l'apporto di zuccheri, per cui è vero che l'organismo risponde, come con il vino e come con la birra, che non sono solo dei liquidi ma sono dei nutrimenti da un certo punto di vista, in modo molto più complesso. Quindi rispondo un ni. Per Gianni, perché in realtà in carenza qualsiasi cosa va bene. Se uno sta cercando un'azione di depurazione o di filtro, ecco che bisogna bere l'acqua pura, e qui va bene qualsiasi momento della giornata. Cuore e denari. Acqua, bevo acqua, la mando giù. Siamo tornati insieme qui con Deborah e Nico, c'è il dottor Attilio Speciani che è tornato a trovarci, puntata dedicata all'idratazione. Nel frattempo vi è venuta sete, bevete perché non può farvi che bene. Dottor Speciani, io vorrei sciogliere qualche dubbio che abbiamo sull'acqua con una sorta di vero e falso. Bere al mattino a digiuno appena svegli aiuta a depurare l'organismo perché vengono eliminate più facilmente le tossine, vero o falso? Vero, verissimo, perché c'è uno stimolo diuretico, l'acqua da sola, presa senza nient'altro, stimola la diuresi, per cui c'è proprio un'immediata facilitazione di eliminare tutto quello che uno deve eliminare. Bere durante i pasti rallenta la digestione? Però lo spiego, perché molta gente pensa che in realtà uno abbia una diluizione. Allora la mia è una risposta che è un ni. Se uno beve tantissima acqua, sì, perché diluisce i succhi gastrici. Se uno beve qualche bicchiere d'acqua mentre mangia, in realtà lo stomaco è buffo, perché fa tutto a cerchi concentrici, e quindi in realtà le cose che arrivano dentro vengono fasciate pezzo dopo pezzo, per cui se c'è il bere 2-3 bicchieri d'acqua non dà nessun fastidio alla digestione. Se uno si beve 2 litri d'acqua mentre mangia, poi, quindi la risposta è un ni. Il calcio presente nell'acqua è assorbito dal nostro organismo? Sì, benissimo, assolutamente, anzi in tutte le situazioni in cui c'è addirittura un eccesso di calcio, il suggerimento è di andare su acque oligominerali. Bere acqua gasata aumenta nei soggetti predisposti il gonfiore addominale? Cioè il contrario di ni, nel senso che in parte l'acqua gasata viene riassorbita, i gas vengono riassorbiti in modo estremamente rapido ed eliminati a volte con cose non poco corrette dal punto di vista della vicinanza, però dal punto di vista pratico non è una controindicazione. Chi ha invece fastidi gastrici, disturbi eccetera, può evitarli, perché c'è questo immediato gonfiore che normalmente viene riassorbito nel giro di pochissimo, e quindi è meglio evitarlo. Però normali possono non c'è scegliere. I bambini piccoli allattati al seno non hanno bisogno di bere acqua, vero o falso? Distinguiamo due aspetti. Sì. Allora, se siamo in una situazione di estremo calore, il bambino ha bisogno di bere acqua, esattamente come la mamma stessa riduce anche il quantitativo di idratazione del proprio latte. Quindi, se siamo in condizioni normali, i bambini non hanno bisogno di bere acqua aggiuntiva. Se siamo in condizioni di temperatura estrema, in condizioni di vento, di perdita, eccetera, il bambino può avere sete, quindi un po' d'acqua gli fa solo bene. Aggiungo una delle tante domande che stanno arrivando, che possiamo leggere come un vero e falso, ce la suggerisce Marco D'Ancona. Bere molta acqua può aiutare ad alleviare i sintomi dell'allergia alimentare o da pollini, che sia, ci scrive Marco. È interessante, perché se si stimola la diuresi, quindi giusto come può essere il bere l'acqua al mattino, c'è anche un'azione di pulizia di alcune delle sostanze, delle citochine infiammatorie che sono presenti in questo caso, quindi è come se fosse un contributo all'azione antiallergica, perché vengono eliminate alcune sostanze infiammanti, quindi parzialmente sì. Bella però come bella. Domande carine. Anche lei ha una domanda per noi che permetterà ai nostri ascoltatori di ricevere a casa un libretto che va per la maggiore. Diciamo che è diventato il nostro best seller proprio del momento. Sul metabolismo. Esatto, sì. Bellissimo. E la domanda è questa. Nel caso si debba bere molta acqua, forti condizioni di calore, ad esempio pensiamo a chi lavora in fonderia, chi lavora in condizioni di calore esasperato e forte, quindi dovendo bere molta acqua, diversi litri d'acqua al giorno, cosa è meglio fare per consentirne il miglior assorbimento? Zuccherarla? Mantenerla così com'è? Acidificarla? 800 24 00 24 per ricevere la per dare la risposta, ma naturalmente anche per scoprire la motivazione. Certo. Perché dietro una domanda che facciamo c'è sempre anche un'opportunità per imparare qualche cosa di nuovo. Ci scrive Marta. Buongiorno, domanda per il dottor Noce Speciale. Grazie. Bevo circa un litro di acqua al mattino appena sveglia con limone. Tendo a bere meno quando mangio a pranzo e a cena. Come distribuire l'acqua nella giornata e con quale cadenza bere? L'abbiamo chiesto proprio ai nostri ascoltatori di pensare se ci sono dei momenti della giornata in cui bevono di più con maggiore piacere o avvertono di più lo stimolo della sete, e quindi la domanda di Marta cade proprio a pennello perché ci aiuta a capire se c'è una distribuzione dell'acqua più consigliata. Ah, quella che sta dicendo Marta è una delle distribuzioni più valide, quindi di avere un buon apporto di acqua al mattino, quindi nella prima parte della giornata, in modo da rimettere in moto e in movimento un po' tutte le condizioni organiche, quindi consentire anche dal punto di vista delle medicine tradizionali il rapporto con l'acqua e con l'idratazione mattutina nel momento in cui c'è un ottimo metabolismo da parte dell'organismo. In realtà questo è estremamente positivo. E invece rispondo alla seconda domanda dicendo che se il nostro gusto non è alterato, bisogna bere quando si ha sete. Il problema vero è di gente che chiude, elimina, ti dice: ma io non ho mai sete, non berrei mai, non ho voglia di bere per nulla. E lì bisogna lavorare anche sull'abitudine. Però spesso la gente ha sete, lo dice, e in quel caso davvero bere durante un pasto, prima di fare un'attività, quando si è finito di camminare e di correre, nel momento in cui l'organismo te lo chiede, imparare quindi ad ascoltarsi, a capire che cosa il tuo corpo sta chiedendo, è un punto estremamente importante. Quindi ci sono i momenti della mattina e durante la giornata, dopo un'attività fisica ad esempio, è importante che tutti si ricordino di bere qualcosa. E comunque non bisognerebbe aspettare di avere sete per bere, no? Quando avvertiamo lo stimolo della sete, il nostro organismo ci sta già avvertendo un po' che è in riserva, come la spia della benzina quando lampeggia. La mia lampeggia sempre. Ma a proposito di sete, dottor Speciani, vogliamo anche cercare di capire se improvvisamente notiamo che lo stimolo della sete inspiegabilmente sempre più frequente, pur non avendo cambiato dieta, pur non facendo caldo, insomma abbiamo sempre bisogno di bere, non ci dissettiamo mai. Questo è un indizio che non va sottovalutato, è corretto? Assolutamente, è un tema importante questo, e giusto come diceva Nicoletta, se io ho molta sete dopo aver mangiato una pizza col prosciutto e un po' salata sopra, è ovvio che c'è un tentativo dell'organismo di, come dire, di diluire l'eccesso di sale che ho introdotto nell'organismo. Ma quando queste cose compaiono in maniera improvvisa, anche se solo occasionale, è bene un confronto con il medico. Spesso questo può essere un indice iniziale di una sovraccarico glicemico o addirittura di un diabete in alcuni casi, quindi è bene che queste cose vengano valutate con attenzione. Prendiamo subito allora al volo Fabrizio da Roma, che credo si trovi proprio in questa situazione, se non abbiamo letto male l'anteprima della sua telefonata. Fabrizio, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, infatti io dicevo, io bevo almeno 3 litri d'acqua al giorno anche in inverno, ma credo che vada anche sui 3,5-4. E ovviamente faccio molta attività, è ovvio, non vorrei che i reni fossero troppo stressati. Assolutamente. Ecco, questa è una domanda. Grazie Fabrizio per questa bella domanda che permette al dottor Speciani di rassicurarci su questo aspetto. Se la situazione è d'abitudine, cioè se è una condizione che dura da tempo, conosco molte persone che hanno addirittura un rapporto con 5-6 litri d'acqua operativi al giorno, che vengono utilizzati ed emessi in maniera estremamente tranquilla, e per cui di solito non c'è nessun tipo di sovraccarico, di preoccupazione. Un esame delle urine consente di avere quell'indicazione per capire se c'è qualche cosa di alterato, però è all'interno della, come dire, della curva di distribuzione della normalità, per cui se è vero che mediamente 1,5-2 litri al giorno va bene per tutti, ci sono anche persone che effettivamente bevono 4 litri senza problemi alcuno, e con una funzione adeguata dal punto di vista renale, che però va magari guardata, ecco. E poi abbiamo Armando che ci chiama da Como. Buongiorno Armando. Buongiorno, un saluto buonissimo alle bravissime conduttrici e al medico che ho ascoltato molto attentamente e ho scoperto che molte cose le conosco. Ecco, succede bravo, questo. Quindi Armando è già preparato. Allora, gli faccio una domanda per metterlo un po' in difficoltà, Armando. Faccio una domanda difficile. Lei al dottor Speciani. Se conosce, la domanda difficile è questa, dottor Speciani. Se conosce un libro bellissimo che io ho letto recentemente, ed è un medico iraniano, il quale dice il mio corpo implora acqua. Penso che molte cose che ho ascoltato dal dottor Speciani vengono riportate da questo libro, legate a una miriade di malattie, ecco, che bevendo acqua sembra che molte malattie vengono attenuate, se non magari non dico cancellate, ma almeno sopportate. Succede questo, che io bevo soltanto dagli 8 ai 9 litri d'acqua al giorno. Quindi come è sanissimo. Come soltanto nel senso che mangia anche però. No, ma mangio, eh? No, nel senso, soltanto nel senso abbastanza ironico, che dico, visto che ho sentito degli amici ascoltatori i quali bevono 4 litri d'acqua, io non mi limito a questo. Una domanda, sicuramente avrà fatto anche un esame delle urine ad un certo punto nella sua storia per vedere se tutto funziona? Sono un maniaco di questo, io faccio il chimico, pertanto... Allora vi parlate tra di voi. Quindi, dottor Speciani, Armando le ha suggerito un libro che possiamo magari di cui possiamo prendere nota anche noi, magari è sicuramente un'indicazione interessante. Io direi, c'è un dato importante che vale la pena in moltissime medicine tradizionali, il fatto di utilizzare, si chiamano i drenaggi, è di supporto, e anche oggi in medicina moderna, medicina scientifica, il fatto di migliorare la capacità di un organismo di eliminare tossine, come si diceva, chiamiamole, che anziché tossine, che è un termine un po' vago, un po' legato ad un'antichità concettuale, però ci sono effettivamente presenza di sostanze infiammatorie, presenza di sostanze tossiche, ci sono residui metabolici che sono più connotati dal punto di vista scientifico, che se noi riusciamo ad eliminare il corpo migliora la sua capacità di risposta, non ovviamente a tutte le malattie come viene detto, però in alcune situazioni può sicuramente contribuire a questo. Gli 8-9 litri sono da guardare, da valutare, nel senso che non l'abbiamo sondato, ed è un dato importante da vedere. Io ricordo quando ero piccolino un'intervista che mi aveva colpito, fatta a Gianni Rivera, calciatore del Milan, che diceva: io in realtà perdo all'inizio della partita e alla fine perdo 2,5-3 kg e bevo 6 litri d'acqua durante la partita, solo lì. E quindi questo mi aveva colpito la mia fantasia di bambino, quando lui giocava, e devo dire che quindi non abbiamo sondato cosa può fare questo Armando che ci ha chiamato, perché se uno fa un'attività sportiva intensa o vive in un ambiente dove c'è molto scambio di aria si può sicuramente perdere molta acqua e averne bisogno. 800 24 00 24, il nostro numero verde a disposizione per le vostre domande. Raccontateci che rapporto avete con l'acqua, con il sintomo della sete, se lo assecondate, se invece non lo state a sentire, lo anticipate. Vogliamo anche parlare del, non sarebbe proprio l'altro lato della medaglia, ma quasi, vogliamo parlare anche di ritenzione idrica. Oggi è una bella occasione, perché c'entra, a volte abbiamo la sensazione che noi introduciamo l'acqua, ma l'acqua per una strana ragione si fermi, si trattenga. Ecco allora che l'anello lascia il segno, l'elastico delle calze, poi le caviglie si ingrossano, la cerniera facciamo fatica a tirarla su anche se non siamo aumentate, le palpebre da rospo, e poi la famosa cellulite, le borse sotto gli occhi. Allora, intanto vi rinnoviamo il quizzettone, che questa volta è del dottor Speciani. Acqua. Se bevo tanta acqua o da bere tanta acqua, cosa è meglio fare? Zuccherarla, mantenerla neutra, acidificarla? 800 24 00 24 per dare la vostra risposta, ma soprattutto per ricevere le indicazioni. Cosa dici? Sentiamo la nostra amica Carmen. Andiamo a Cuneo. Carmen, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno anche a lei. A parte il fatto di una cosa che ha detto, io sono stata operata e un rene in meno da 2 anni. A parte il fatto che, essendo molto magra, comunque non era la domanda, ma me l'avete tirata fuori voi. La mia pancia si sta gonfiando, quindi devo fare degli esercizi. Allora, premetto, la mia domanda era diversa. Io non riesco a bere acqua, non so perché, mia nonna non riusciva, mia nonna non riesce. Allora, ho sostituito quello con consigli vari. Volevo sapere se era la stessa cosa. Io bevo circa, credo, 3 litri al giorno, partendo dal mattino con un bicchiere, ed è vero che la sensazione di togliere le tossine è molto allungate, molto allungato. Di? E poi per tutto il resto della giornata non bevo acqua sola, bevo in genere tè, ma molto molto molto molto allungato, non tè puro. Sì. Volevo sapere se era la stessa cosa. Sì. Allora beve al mattino. Grazie. Sì, allora Carmen beve al mattino. L'utilizzo di tisane, di infusi e il tè in particolare. Consideriamo che se il tè è una delle sostanze che comunque apporta un prodotti fermentati all'organismo, per cui se non ci sono reattività specifiche può essere bevuto. Non e quello verde però. Il verde non l'apporta, bravissima, vedo delle esperte qui assolutamente eccezionali. E invece il tè verde è seccato e quindi può essere usato. Però infusi e tisane, sempre tenendo da conto che hanno anche una valenza farmacologica particolare, a seconda della situazione, possono essere utilizzati con tranquillità. A volte le persone hanno proprio questa necessità di sentire un gusto, un odore diverso, che va bene, è accettabilissimo. Dottor Speciani, aiutiamo i nostri ascoltatori a capire se hanno un problema di ritenzione idrica, tema a cui dedicheremo una puntata perché ci sono dei temi che sono stagionali. Tra poco tutte ci scateneremo con oddio la cellulite, cosa devo fare, dovevi pensarci prima, eccetera. Ritenzione idrica, noi l'associamo all'acqua, lei invece l'associa al fuoco in un suo libro, e quindi forse è utile, anche se solamente per un paio di minuti, accennare a questa relazione, sembrano due situazioni assolutamente diverse. È interessante questa cosa perché è l'immagine con cui io lavoro da anni sull'aspetto dell'infiammazione da cibo, e il tema è che tutti rispondono è che se si immagina che cosa fa una persona quando ha una struttura che sta bruciacchiando, in genere è di buttare acqua. Uh-huh. E il corpo pensa esattamente nello stesso modo, cioè cerca di buttare liquidi dove c'è uno stato infiammatorio. Perché? Per diluire la concentrazione delle sostanze infiammatorie. Queste fanno male, irritano, danno fastidio, io le diluisco un po' e quindi ovviamente ne ho meno effetto dannoso. Questa cosa però riempie, tra virgolette, gli spazi molli, nel senso che ognuno si trova con le gambe gonfie, sott'occhi gonfi, le tibie gonfie e così via. Ecco, se siete in questa condizione non perdetevi una prossima puntata in cui il dottor Speciani tornerà e ci spiegherà come disinfiammare. Intanto abbiamo la nostra ascoltatrice che è Rosanna da Bari. Buongiorno. Sì. Rosanna, allora l'acqua zuccherata, acidificata, normale? Credo acidificata. E il dottor Speciani dice evviva! Sì, grande, perché brava, dottor Speciani in un secondo? In un secondo, perché dobbiamo cercare di tenere più simile il pH, quindi l'acidità dell'acqua, a quella che entrerà nello stomaco. Se io entro con tanta acqua, 10, 12, 15 litri di acqua non acidificata, diluisco e non riesco più ad assorbirla, quindi resta lì bloccata. Invece acidificata entra, è assorbibile, meglio. Funziona. Allora, grazie a Roberta Frisani. Non, sì, la nostra nuova quasi regista. Sì, esatto, grazie ai nostri angeli custodi, Marco Lombardo e Isotta Scenna. Noi torniamo lunedì, saremo in diretta da Verona con il Vinitaly, quindi dottor Speciani, passiamo dall'acqua al vino con una naturalezza come vede che c'è, assolutamente congeniale, e noi ci risentiamo presto. Buona giornata a tutti. A presto, arrivederci. E denari.